vostro orecchio. Radio Zin di disinformazione musicale. Buonasera a tutti, non so prima quanto si è sentito e quanto non si è sentito, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Dunque, facciamo finta quindi che non si sia sentito niente, anche se immagino che qualcosa dal microfono sarà passato, rifacciamo un po' tutto. Ripartiamo da zero. Dunque, terza puntata del Terzo Orecchio, in studio Mr. Soft. Dicevamo prima, forse, parliamo un po' di notizie pescate in giro per i blog, informazioni su gruppetti, informazioni musicali e quant'altro passa per la mente. Purtroppo però in questa puntata sono solo, non ho ospiti come nelle puntate precedenti, quindi a parte problemi tecnici, che invece quelli ci sono sempre. Nell'ultima puntata avevo sbagliato ad inserire il microfono, in questa ho sbagliato con la scheda audio. Sono aperte le scommesse sulla prossima puntata. Comunque, dicevamo, spero che ci sia ancora qualcuno ad ascoltare, che non siate tutti fuggiti a vedere Porta a Porta su Rai 1, a vedere il reality di consegna delle chiavi, insomma, delle case in Abruzzo, insomma, perché Radio Flow è stata l'unica emittente, abbiamo detto prima, ad essere riuscita ad evitare la censura, quindi noi siamo in onda nonostante tutto questa sera, in barba al premier, al quale dedichiamo questa canzone dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che avevano scritto nel 94 apposta per lui. Mi traimbracciati neri, mi do un'altra in svanti. Ho fatto che la luna mi muore passato, se volo con le mani. Radio Flow. Rieccoci in studio. Niente, io qui non riesco a capire se si sente o non si sente, se riuscite ad ascoltarmi. Ci sono ancora forse dei problemi tecnici, magari qualcuno me lo faccia sapere. Anzi, già che ci siamo, vi lascio un po' di contatti, tanto della radio quanto personali, magari se volete intervenire in trasmissione, richiedere, segnalare qualcosa di interessante o richiedere qualcosina, vi fate, battete un colpo e vediamo che si può fare. Dunque, innanzitutto il contatto di Twitter, vi lascio il contatto di Twitter che è Radio Flow, mentre il mio contatto personale su Twitter è Mr. Soft, Mr. col puntino e poi spazio Soft. Eventualmente, volendo, potete anche contattarmi per email. L'email è mrsofter, tutto unito con la ER finale, @gmail.com. Niente, noi dunque andiamo a sentirci un'altra canzone e vediamo di capire se questi problemi tecnici sono risolti o meno. Shape like a descent to that. E tanto che aspettavo un'occasione così. Stai ascoltando Radio Flow. Rieccoci, sembra a quanto ho capito che i problemi siano stati risolti, speriamo di sì, aspettiamo il prossimo problema. Dunque, anzi, già che ci siamo, ne approfitto per ricordarvi che se ci dovessero essere problemi, ulteriori problemi nell'ascoltare Radio Flow direttamente sul sito con il Flash Player, allora potete scaricare il file .pls che si apre con automaticamente, dovrebbe aprirsi con il vostro lettore audio predefinito. Insomma, sapete anche questo e iniziamo dunque a parlare un po' di notiziole pescate in giro per la rete. Dunque, notizia della settimana, nella sfilza di decessi che ci sono negli ultimi tempi, Mike Bongiorno è il fantasma di Ghost del quale non ricordo il nome, chi più ne ha più ne metta, è venuto a mancare anche Jim Carroll, chi non lo conoscesse. Diciamo, per chi non lo conoscesse, diciamo dunque chi era Jim Carroll. Era un musicista, scrittore, ruotava, insomma un artista newyorkese che ruotava attorno all'ambiente della Factory di Warhol. Era famoso soprattutto per una sua pubblicazione, si chiama The Basketball Diaries, ma era anche un ottimo musicista, era apprezzato da Patti Smith. È morto, se non sbaglio, ieri all'età di 60 anni, era malato da tempo. Noi andiamo ad ascoltarci il suo pezzo più famoso, People Who Died, di Jim Carroll. Right, so they died ahead.

Radio Plus, web radio around the world. Rieccoci in studio, questi erano i Vipers di Greg Sage, gran gruppone punkeggiante da riscoprire. Dunque, innanzitutto facciamo quindi un saluto a tutti gli ascoltatori e poi il mio appello è stato accolto e quindi bisogna fare un paio di annunci che mi sono richiesti direttamente da Tone, da Squagliatone. Dunque, lui mi chiedeva di fargli un po' di pubblicità e siccome dobbiamo tirare a campare facciamo questa pubblicità. Dunque, in quanto arredatore di interni, arredatore di interni per poveri, mi diceva di essere disponibile a prezzi modici. Quindi il requisito minimo è avere degli interni, poi potete contattarlo, scrivete direttamente sulla chat di Radio Flow del sito, insomma, saprà sicuramente, io ve lo consiglio, un ottimo professionista, quindi Squagliatone, il suo nome è Squagliatone, sapete dove trovarlo. Torniamo a parlare di cose serie, altra notizia della settimana, vicenda che ha coinvolto i fan dei Las Vegas, è stata la scomparsa di James Allan, insomma il cantante del gruppo scozzese, il cicalone insomma del gruppo scozzese, che a quanto pare non si era presentato alla cerimonia di una premiazione alla quale dovevano prendere parte i Las Vegas e poi dovevano esibirsi. Poi per fortuna questa vicenda si è conclusa bene, perché a quanto pare il cantante chitarrista si trovava a New York, in preda allo stress aveva deciso di staccare, non usando il cellulare, insomma era irreperibile, si era temuto il peggio. Addirittura la ricerca si era spostata su Twitter, dove i membri della band avevano mandato un messaggio in cui chiedevano al cantante di farsi vivo. Non sappiamo se è un'operazione poi pubblicitaria o meno, noi non siamo sospettosi, quindi confidiamo nella buona fede dei Las Vegas e andiamo ad ascoltare una canzoncina dei Las Vegas, tra l'altro una versione particolare perché viene dal loro primo demo. vanno a registrare Porta Brame. Radio Flow Best. Dunque, mi chiedono perché parlo solo di gente morta. Non è colpa mia se è un periodo in cui muoiono tutti come fossero zanzare, quelle qua in estate, le quali viene spruzzato del Fleet. Dunque, parliamo, per restare in tema, parliamo sempre di gente trapassata, perché un altro fatto che ha animato le cronache dei web magazine di mezzo mondo è la disputa tra Courtney Love e i creatori di Guitar Hero 3, se non sbaglio, non ricordo più a che episodio sia arrivato, perché nell'ultimo prodotto, insomma, di questa casa per videogiochi pare che sia inserita è inserito il personaggio, l'avatar di Kurt Cobain, che suonicchia, oltre alle sue canzoni, tra l'altro, tutte le tracce presenti nel gioco. Allora, la disputa sta verte attorno al fatto che Courtney Love pare abbia firmato il contratto, la liberatoria, per concedere i diritti, e poi, come suo solito, probabilmente avrà dimenticato quello che ha fatto, non sappiamo in preda a quale sostanza. Fatto sta che dice di non aver firmato nulla e quindi ha promosso, probabilmente, non so se l'ha promosso o meno, una causa legale per spillare, credo, un po' di soldi o per avere un po' di attenzione su di sé. Non sono da meno gli ex compagni dei Nirvana, i quali allo stesso modo si sono detti contrariati per la presenza di Cobain nel videogioco. Il problema in questo caso è però legato al fatto che pare, appunto, che il personaggio possa suonare tutte le canzoni del gioco, e quindi loro erano un po' offesi dal fatto di vedere Kurt Cobain suonare magari i pezzi dei Blink o di altri gruppi, non so, insomma, che cosa ci sia. Chiedevano che venissero bloccati, insomma, le tracce, che si potessero suonare solo le canzoni Nirvana. Questa, insomma, è una notizia stronza, così non è successo molto in questa settimana, quindi allunghiamo il brodo con queste cazzatuncole, andiamo ad ascoltarci un paio di canzoncine correlate a questa notizia. And if you save yourself, you will make him happy. yourself, you will make him happy. Eccoci, abbiamo ascoltato le Hall, quindi restiamo grosso modo nello stesso arco temporale, perché parliamo, anzi restiamo anche nella stessa famiglia perché parliamo ora di Billy Corgan, che con Courtney Love ha avuto un po' di storielle giù di lì. Dunque, cosa è successo? Billy Corgan, che è forse la prima persona non deceduta della quale parliamo in questa sera, no, avevamo detto che il cantante dei Las Vegas poi è stato ritrovato, quindi Billy Corgan, che è ancora vivo, ha aperto tra l'altro in questi giorni, notizia recente, un sitarello, niente, mi scrivono delle cose, va bene, mi scrivono che Courtney Love sarebbe una tromba amica di Billy Corgan, probabilmente è così. Dunque, dicevamo, Billy Corgan ha aperto un sitarello nel quale si parla, leggo esattamente, di integrazione, si parla di integrazione di mente, corpo e anima. Ha fondato questo sito il 9/9/2009. Spiega, il sito è everythingfromthere.com. Spiega che è un posto di amore, niente, tutto ciò continua grosso modo quello che è il discorso intrapreso da Billy Corgan un po' di tempo fa, da quando, insomma, diciamo, si è convinto di essere il prescelto, il salvatore dell'umanità e quant'altro, l'unto dal Signore, e niente. Tra l'altro, vi consiglio anche, se volete farvi quattro risate, di seguire un po' il profilo Twitter di Billy Corgan. Se non sbaglio, si intitola proprio, l'indirizzo è proprio Billy Corgan, www.twitter.com/Billy Corgan, dove, insomma, si lascia andare un po' di affermazioni quantomeno bizzarre su Dio, anima, sul benessere, eccetera eccetera. Niente, a noi piace ricordare un altro Billy Corgan, che è quello che andiamo a sentire ora, anche perché effettivamente negli ultimi anni, tanto come solista quanto come Smashing Pumpkins, non è che abbia dato grandi soddisfazioni al suo pubblico. Niente, ci ascoltiamo Mayonnaise degli Smashing Pumpkins, questo è il pezzo. Around the World. Continuano i problemi questa sera, infatti chi ci sta seguendo avrà notato che durante il pezzo degli Smashing Pumpkins è venuta meno la mia connessione, ma niente, noi continuiamo nonostante mi viene il dubbio che possano essere dei tentativi di censura di Silvio Berlusconi, ma niente, noi continuiamo imperterriti a dare notizie scomode al mondo della politica e della musica internazionale. Parliamo un po' di nuove uscite di dischi in arrivo. Infatti, dunque, vediamo un po'. Dischi in arrivo abbiamo. Sento urlare, probabilmente vengo a sapere che c'è la partita e quindi potrebbe essere assegnato qualcuno. Niente, niente, niente. Noi continuiamo a dare notizie ben più importanti. I Klaxons. Gli eroi della New Rave, questo genere così ribattezzato dato che non si sa più che nomi inventare, insomma rock mescolato un po' di dance, sono in arrivo con un nuovo disco, ma quello che più ci interessa a noi è invece un'altra notizia. Infatti sembra che i Klaxon prenderanno parte ad un progetto che deve celebrare i 70 anni di Alan Vega, il celebre membro fondatore dei Suicide, prenderanno parte quindi ad una serie di vinili a tiratura limitata nel quale i vari gruppi reinterpretano i pezzi dei Suicide. Ancora non sì, sappiamo il pezzo che rifaranno, è il pezzo scelto dai Klaxon, è Sweet Earth. Noi intanto però andiamo ad ascoltare qualcosa dei Klaxons, Atlantis to Interzone dal loro disco d'esordio, e poi chicca, andiamo ad ascoltare anche un bel pezzo dei Suicide. Rieccoci in studio, continuiamo a parlare un po' di dischi in arrivo. Ricordiamo che nella prossima settimana, dunque, uscirà dal 26 ottobre, non la prossima settimana, tra un mese, arriverà praticamente, abbiamo la notizia ufficiale, una compilazione che riguarda la carriera recente di Morrissey, ovvero Swords. una raccolta di B-sides, 18 B-sides provenienti dagli ultimi 3 dischi dell'ex cantante degli Smiths. Il tutto sarà disponibile in vari formati, appositamente per collezionisti, per combattere insomma diciamo la pirateria. Ci sarà il doppio vinile, sarà incluso tra l'altro anche un piccolo live fatto da Morrissey nell'ultimo anno, nel 2009, a Varsavia. Parliamo però di un'altra notizia che tengo molto a darvi, ovvero di Dente. Dente che in questa settimana ha fatto un'incetta di successi, infatti con il suo album, l'ultimo album, L'amore non è bello, ha innanzitutto vinto il premio per il miglior album indipendente del 2009, secondo il premio italiano della musica indipendente organizzato dal MEI, ma soprattutto, cosa molto piacevole per i fan di certa musica, Dente è tra i finalisti del premio Tenco nella categoria niente meno che album dell'anno per i cantautori, con gente come Vinicio Capostella, Ivano Fossati, Max Manfredi e Bobo Rondelli. Niente, noi facciamo il tifo, io faccio il tifo per Dente, spero anche voi, perché il suo ultimo disco era veramente un piccolo gioiello, ricordiamo, uscito per Ghost Records, una piccola etichetta varesina che però ci regala diverse perle. Noi ascoltiamo quindi, direi, prima un pezzo tratto dall'ultimo album di Dente e poi qualcosa di Morrissey solista. Dunque, A me piace lei di Dente e poi Morrissey, abbiamo detto, andiamo. Piacciono le ragazze con le doppie punte, le macchine senza le multe. Mi piacciono quei lavori che si suda tanto, mi piace anche la pausa pranzo. Mi piacciono le risate, le stelle filanti, e virino di mezzo ai campi. Ma su tutto e su tutti, su tutto e su tutti. A me piace lei, e lei piace a me, e vorrei che mi vedesse, che la pensasse esattamente come me. Se le piace cucinare, mi fa la cucina, sarò il sole se le piace la mattina. Se le piace il suo palazzo, le starò vicino, sarò l'uva se le piace il vino. Se le piace camminare quando piove tanto, sarò l'ombrello di qualcun altro. Se le piace volare, su tutto e su tutti, su tutto e su tutti. A me piace lei, e lei piace a me. Pensasse esattamente come me. A me piace lei, e lei piace a me. Piace a me. che la pensasse esattamente come me. Mi piacciono le canzoni per finali tristi. Radio Flo, web radio around the world. With all the new crimes that you are perfecting, oh, I can't help quoting you. Could everything that you said rings true? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. And now in my cell, well, I followed you. Rieccoci ancora una volta, siamo ormai alla fine, anzi abbiamo già sforato di oltre 20 minuti, ma in questa puntata, non essendoci Snowflow dopo, possiamo continuare a parlare ancora un po', e quindi parliamo un po' del disco della settimana scelto da Indie for Bunnies, questa collaborazione tra Indie for Bunnies e il Terzo Orecchio che va avanti dall'inizio della trasmissione. Parliamo quindi del disco di questa settimana. Indie for Bunnies ha scelto come disco dei sette giorni il disco di Noah and the Whale. Per l'esattezza il titolo è The First Days of Spring. Dunque, inutile, la recensione è di Sakiel, dell'amico Sakiel, ma è inutile che io vada a leggervi la recensione, un pezzo della recensione, perché credo che il modo in cui è scritta meriti che venga letta per intero dall'inizio alla fine. Vi dico semplicemente che il disco è molto particolare, Sakiel accosta Noah and the Whale ai National, ai Frightened Rabbit, ai Decemberists, insomma ci siamo, abbiamo capito grosso modo il genere, un certo folk orchestrale, però diciamo Noah and the Whale hanno un po' cambiato le sonorità con i quali eravamo abituati a conoscerli. Credo che alla fine la cosa migliore sia andare ad ascoltare un pezzo per capire un po' di cosa stiamo parlando, dato che qualcuno diceva che parlare di musica è come ballare di architettura. Quindi andiamo con Noah and the Whale, My Broken Heart. fa sentire queste canzoni. Radio Flo, libera radiofonia tra amici. Rieccoci per l'ultima volta, perché per l'ultima volta della giornata specifichiamo, perché siamo arrivati alla fine di questa puntata, sono le 22:30, quindi il terzo orecchio finisce qui, puntata funestata da una serie di imprevisti, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa la nostra ora di trasmissione, quindi ci salutiamo. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre il martedì, ma prima di chiudere la trasmissione vi do un'ultima piccola segnalazione, un progetto molto interessante a mio avviso, vale a dire il cosiddetto MAP, il Music Alliance Pact, ovvero una idea nata proprio in rete sui blog. Vale a dire vari blogger di varie parti del mondo che si incontrano virtualmente una volta al mese sui loro spazi virtuali, inviano ognuno una canzone di un gruppo che ritiene particolarmente meritevole del proprio paese, di mese in mese viene fuori un bellissimo CD con praticamente tantissimi gruppi sconosciuti ai più, magari molto noti in patria ma sconosciuti all'estero. Per l'Italia collabora il blog di Polaroid, ricordiamo l'indirizzo è www.polaroid.blogspot.com. Collegandovi appunto al blog potete scaricare tanto l'ultima puntata del MAP quanto anche del Music Alliance Pact, la numero 12, quanto anche tutte le precedenti 11 puntate. Per la puntata di settembre, quindi, Polaroid ha scelto un gruppo per l'appunto in Italia molto famoso ma all'estero probabilmente sconosciuto, vale a dire i Giardini di Miró, in particolare un pezzo estratto dall'ultimo lavoro della band, Il Fuoco. Si tratta praticamente di una sonorizzazione di un film del 1915, film girato da, un attimo che vi dico per curiosità, da Giovanni Pastrone con la supervisione di Gabriele D'Annunzio. Quindi si tratta di un lavoro molto particolare, ma ormai insomma i Giardini di Miró hanno raggiunto la maturità per sperimentare anche cose nuove. Dicevo, noi ci salutiamo qui, ci lasciamo proprio con le note dei Giardini di Miró, in particolare il pezzo si intitola La Vampa. Ci diamo appuntamento a martedì sempre alle 9. Un saluto da Mr. Soft, la musica dei Giardini di Miró. Buona serata a tutti, ciao.